Sarà vero che i valori più importanti per gli italiani restano Dio, patria e famiglia e che siamo tutti meno individualisti? Lo dice molto in sintesi l'ultimo rapporto del Censis. Pareri a confronto nella puntata speciale di questo sabato con me, Roberta Giordano, e tanti esimi ospiti. Allora vi aspetto, come sempre, a Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.